ci sei? Ci sono, dammi un... E beh, com'è? Guarda, per me va bene, non ci sono problemi. Adesso sei agganciato? No, adesso sono agganciato, 5 watt, 10 modulati. Prova a agganciare. Ulla, così sono agganciato, cambio... Sono per 30 secco, vabbè, però va bene anche senza l'ecco, guarda, adesso ti tolgo l'ecco, guarda. Guarda, così è senza ecco. Così è senza ecco, un microfono normale, cambio. Va bene anche così, cla. E Mickey Green com'è? Mickey Green è più sopra della metà, perché adesso ti faccio vedere un'altra cosa. Se lo aumento mi fischia. Adesso attacco l'MB più 5, ok? Riferimento cassetta, per capirci, ok? Ti faccio sentire questa realtà di questa radio. Quindi questo è il microfono normale, adesso ti attacco l'MB più 5, e ho messo la batteria. Dai, là, va bene, va bene, adesso gli ha segnali. Non ti spaventare però, Questo è l'MB più 5. Bella. Realtà, dimmi, se metallica regolo i toni, se no non lo so, se no lascio stare così. Dimmi, come ce li hai i toni? Allora, così ce l'ho a 3, che mi sembra che sia la regolazione migliore. Così ce l'ho a 4, così ce l'ho a 4, così è in mezzo, vabbè, sono con le cuffie se sento rumore. Così sono a metà, a 5, mi sembra troppo barattoloso. Sì, sì, positivo. Ascolta, invece Michelin com'è? Michelin è a metà, Massimiliano. Posso abbassare leggermente, ecco. Ce l'avevo a 4, l'MB più 5, lo metto a 3. Ecco, così è a 3. Così a 3. E a 3 il tono. Ascolta, allora, il Michelin lo lasci così. Chiudi tutti i toni, voglio capire una cosa. Allora, così sono a 3 i toni e così sono troppo chiusi. Tutto a 0. Bruttissimo, io sono in cuffia. No, così non va bene. A metà i toni. Allora, così sono a 2. Eccolo qua. Così a 2, Massimiliano. No, aumenta. Allora, così a 2, così a 3, così a 4 e così a 5. Così a 6, così a 7, che schifo, ritorno indietro, guarda. Può stare tra il 3 e il 4, ma molto probabilmente meglio il 4, il 3. No, invece io l'avrei lasciata tra il 5 e il 6, prova. Guarda, così è tra il 5 e il 6 e ti do leggermente di amplificazione, praticamente a 3. Ecco, adesso i toni, lasciali così. Aumenta leggermente il Michelin della radio, come ce l'hai però, aspetta. A metà è Massimiliano, mezzogiorno. No, negativo, aumenta quello della radio, mettile alle ore 3. Allora, così è, guarda, così ho salito proprio di un pelino. Cazzo, andiamo a modulazione. Va bene, eh? Cazzo, la cabuba, Così ho salito leggermente il Mickey Green della radio e praticamente, sì, oltre la metà, dai. L'MB più 5 è a 3, con i toni è a 3, 2,5 3, dai. Ecco, ok, adesso fa una cosa, il Mickey Green della radio, cioè, scusa, del microfono, lo metti a 2,5, a 2,5, e aumenta ancora il Mickey Green della radio. Allora, questo si può fare mentre stiamo parlando, quindi abbassiamo il potenziometro dell'MB più 5, eccolo qua, e tiriamo su leggermente, eccolo qua. Praticamente siamo oltre quasi un quarto, dai, col Mickey Green della radio. Tipo quasi un quarto, mi stai dicendo che sei quasi alle ore 3, giusto? Esatto, quasi alle ore 3. Ecco, adesso invece quello del microfono ce l'hai come? Me l'hai fatto mettere a 2, 2,5, dai, una cosa del genere. sulla T230 siamo a 150. Ascolta Claudio, fai una cosa, perché la radio aumenta ancora. Allora, porta il watt della radio a 3 e metti in sesta marcia. Aspetta che però devo staccare il lineare. Allora, così è staccato, vedi che non cambia niente la radio. Siamo a 5 watt. Allora, già con 3 watt la radio ha già aumentato un po', eh. Ecco, adesso il linearetto, mettilo in sesta marcia, voglio capire una cosa. Aspetta, riattacco. Allora, così attaccato. Riportiamo in scala. Ecco qua. Già i picchi sono cambiati, eh. Aspetta che cambia però, Massimiliano, la marcia. Dove ti atto 6. Eccolo qua, e gira, eccolo qua, così in sesta marcia, 180. Aspetta, c'è una radio allucinante. Ecco, qui siamo in sesta marcia è tricche e ballacche proprio, va bene, va bene. Ottimo per la truppa, la radio quindi va bene adesso, non è metallica. No, no, negativo, negativo. Però voglio fare ancora un'altra prova, Cla. Stacca il lineare e metti la radio a 2 watt, a 2. Allora, lineare staccato. Scala 20. I watt sono qua. Ecco qua, 2 watt Massimiliano. Cambia. Lo so che cambia, ma intanto io la uso praticamente senza cosa, senza eco, perché l'eco non lo posso mettere, cazzo, sono in cuffie. Va bene, va bene. Ecco, adesso lo lasci con 2 watt di portante bianca la radio e metti il linearetto in quinta marcia. Vediamo un po'. Ma no, non sale Massimiliano, troppo poco. Poco? Quanto va? No, siamo sotto i 100 così, troppo poco, ci vuole pilotaggio. Ci vuole pilotaggio, metti in sesta marcia. Vedi, anche in sesta non è... No, bisogna darle almeno 5 watt bisogna darle per salire, se no non sale. Un piccolino, perché la radio è bella, dico che la radio è veramente bella. Ascolta, non toccare niente adesso, lascia la linea accesa, tutto quanto, dalle alla radio, dalle un pochino di Mickey Game. Allora, questo si può fare parlando. Allora, Mickey Game, guarda, ti ho dato proprio neanche una tacchetta. Come sia, alle ore 3 più o meno? Più o meno ci siamo, dai. Aumenta un altro pelino. Ok, così siamo direttamente alle ore 3. Direttamente alle ore 3 siamo così. Certo, già cambia, già cambia. Allora, aumenta appena appena il microfono. Quindi da 3, da 2 e mezzo a 3 di nuovo così. Mi fischia Massimiliano. Fischia perché c'è troppa radio, capito? C'è troppa radio. Ma infatti conveniva lasciarla così, appena appena, ecco. La lasci così e dai appena appena qua di coso. È ultimo per la truppa, dai. Ce l'ho a 3, a 3 l'MB più 5 e... appena di più dai del normale, quasi alle ore 3 il Mickey Game. Però aspetta un attimino, fammi mettere le cuffie, cioè sono a cassa esterna e non cuffie che ti do proprio il segnale, cioè il segnale, la radio giusta, aspetta. Perché mi serve la regolazione giusta, Massimiliano, non è che posso stare sempre a regolare, a fare. Ci vuole la regolazione, va bene. Allora aspetta io un attimo qua. Questo è troppo basso. Così dovrebbe andare bene, Massimiliano. Aspetta un attimino, aspetta. Fammi, ecco, aspetta. Allora, fa un passaggio. Guarda a vedere, qui sono agganciato con, come mi hai detto tu, 1, 2, 3, 4, e così sono sganciato. Allora, tu fatti il conto che fai, da 9, 5, 9, 10, più o meno vai a quasi 9, 30. Così, perché altrimenti è troppo forte, Massimiliano, troppo forte, come anche in cuffia mi sento troppo rimbombante, ecco, lo lasciamo stare così, dai, va bene, è un abbinamento buono, dai. Positivo, no, volevo che provarvi il più 4 per vedere la differenza dal più 5, cioè giusto per capire, mi hai capito? Più 4 lo stavo provando, Massimiliano, però neanche con l'adattatore va bene, non ho capito il perché, mentre invece questo con l'adattatore va bene. Non sa, vabbè, comunque la radio è ottima, quindi così si è agganciato in sesta? No, così sono sganciato. Così sono sganciato e così sono agganciato, capito? Allora, così invece c'hai 3 watt, 5, quanti ne hai di radio solo? Quello che abbiamo regolato, 3 watt. 3 watt, è agganciato, te ne dà quella Gigino? Con 3 watt ne dà 100 piedi, mentre invece con 5 arriva a 130-140. Allora, prova a metterlo, sgancia un attimino, sgancialo. Così è sganciato. Ok, la radio portala a 5 watt. Vieni, fallo giù, sì. Aspetta. Allora, 5 watt dovrebbe essere così. Eccolo qua, 5 watt. Ok, metti il linearetto in quinta marcia, non in sesta, in quinta, e aggancia. Quinta marcia. 155. No, abbassa in quarta marcia, in quarta. Quarta marcia, eccolo qua, 145. Allora ti spiego, più fate le dare la radio e più te la mangia. Già con la quarta marcia sei già buono. Quindi per andare in sesta marcia con quello, quinta, sesta marcia, devi andare con 3 watt e mezzo di radio. Allora guarda, la mettiamo così e praticamente io le tolgo 1 watt, guarda, così gli ho tolto 1 watt, va meglio? Sempre in quarta marcia. Sì, va benissimo, a casa mi sembra venduto. Ecco, allora, la regolazione sua è questa, non c'è niente da fare. Sì, adesso sei con 3 watt, 4 watt, giusto? 4? Sì, gli ho tolto 1 watt. Da 5 l'ho portato a 4 e sono agganciato. Si è agganciato in che marcia? In quarta? In quarta posizione. Prova a metterle in... fai un passaggio in quinta e poi in sesta. Allora, passaggio numero 1 in quarta marcia, ok? Ok. Passaggio numero 2 in quinta marcia. Vai. Passaggio numero 3 in sesta marcia, ma qua siamo quasi a 200. No, te le sta mangiando la radio, Claudio. In sesta te le sta mangiando la radio. Allora, un altro passaggio mi fai. La radio la porti esattamente con 2 watt di portante bianca, 2. Allora, aspetta che devo sganciare. Allora, qui sono sganciato. Wattimetro. Potenza. il mio radio, è qua. Siamo... infatti ci sono, eh. E poi sono anche picchi positivi. Picchi positivi. Va bene. Fa una cosa. Vabbè, scusa tutte queste regolazioni, però sono da fare perché sennò poi guardate che è brutto da sentire. Un'altra mia curiosità, sgancia il lineare e lo porti la radio al posto di 2 watt e la porti a 1 watt, 1. Allora, adesso ho sganciato. Sganciato. 1 watt. 1 watt. Già, la radio è bella, amico, 1 watt è già bella la radio, figurati. Agganciato. Ecco qua. 100 watt. Bella, 100 watt la radio è bella così, Bella? Lo so, però io voglio sfruttare il massimo di questa. Allora facciamo una regolazione così agganciato, tanto vedo oramai la differenza del wattimetro. Ti salgo di 2 watt, mi dici se potrebbe andare bene. Ecco qua. Allora, sono salito di 2 watt, la posso lasciare così? Sì, sì, anche così è bella, anche così è bella. Ascolta, facciamo un'altra regolazione, il microfono al posto di 3, portalo a 2 e aumenta il mic gain della radio. Ok, allora, abbasso il potenziometro del microfono, che è questo, lo sto abbassando a 2, e sto andando a toccare il mic gain. Allora il mic gain lo sto sollevando leggermente e così è a ore 3 praticamente, ore 3. Eh sì, grazie, c'è un bel radio, c'è, capito? Ma non è al massimo, lo sai, la mia modulazione com'è, Massimiliano, io tiro forte di corde vocali e quindi... Per me i microfoni sono tutti professionali, anche quello normale andava benissimo. Quindi siamo così. Allora, l'ultima prova che voglio fare è dare un altro watt per vedere se la radio mantiene o è masticata. Eccolo qua. Allora, ho dato un altro watt, siamo a 4 watt. Va bene ancora? Va bene ancora perché ha aumentato il mic gain della radio, capito, Cla? Allora, se tu invece mi porti a zero, quasi a zero, il microfono, e aumenti ancora la radio, voglio capire un'altra cosa. Allora, il microfono te lo porto a zero, eccolo qua, così a zero, Così a zero il microfono, e vedo che sta uscendo lo stesso, e vado a sollevare, ecco qua, praticamente... Il mic gain è tutto al massimo. Ecco, adesso tu il mic gain che ce l'hai tutto al massimo, lo chiudi proprio un pelino. Allora, vado a chiudere il mic gain un pelino, come hai detto tu. Eccolo qua. Praticamente gli ho tolto un'attacca. Ecco che. Allora, adesso il microfono ce l'hai? A zero. Neanche a uno. E lo fa già ascoltarti da quanto è forte la radio. Portalo a uno. Aspetta che se non mi avvicino troppo le cuffie, eccolo qua, ancora mi gracchia sto cazzo di microfono, però devo sistemare bene il potenziometro. Allora, così è esattamente neanche a 2. No, troppo forte, ascolta, va bene, comunque prova a lasciarlo così, aumenta i toni. Allora, i toni qui sono a 2 e così li porto a 3, ecco qua, così i toni sono a 3, Massimiliano. Vai a 4. Così sono a 4, ma diventa troppo metallica, vedi? 3 e mezzo. Allora, così sono a 3 abbondante, dai. Chiudi, qua, un altro pelino la radio perché ce n'è troppa. Chiudo un altro pelino? Allora chiudiamo un altro pelino, eccolo qua, chiuso un altro pelino, praticamente il microfono è a 1. Lascialo a 1 il microfono, abbassa ancora un pelo la radio. Ecco qua, abbassata leggermente, proprio un pelino, pelino, vai. Così è bella? Mi sto sentendo, Massimiliano, così è favola, così è molto bella. Questa distanza sono praticamente a 40-50 cm dal microfono, non mi posso avvicinare perché sono in cuffie, però dovrebbe andare bene. Sì, anche 9.30 qua però, Lo so. Aspetta, cazzo, però la mano non si può mettere sull'amplificatore. Minchia, questi transistorizzati si scaldano con un cazzo di cose. Chiudila, chiudila un altro pelino la radio, tanto già ce l'è. Chiudo un altro pelino, sì, la chiudo, vediamo un attimino così, ecco qua. Allora, così dovrebbe essere favola, In cuffie perlomeno mi ascolto molto bene. Così è perfetta, Cla. Sono a 2.5, quasi 3, microfono neanche a 2, e Michigan dall'87 praticamente alle ore 3. Così è perfettissima. Vai in FM a vedere. Allora, AM, FM, aspetta. Cazzo, allucinate quella radio. Bella, bella veramente. Ma te l'ho detto che... Gallina vecchia fa buon brodo. Attenzione, stiamo parlando di un anno 87 Colt, quindi adesso c'ho il microfono a tavolo, quindi devo cambiare il microfono, ma per fartelo sentire. Però già l'hai già sentito, Va bene, va bene. Li ho provati tutti, ieri stavo provando il Ranger, il Typhoon 2 lo stesso, ho provato il 3009, adesso sto provando la 87 in modo che siano veramente a posto, veramente ok per fare appunto le operazioni che devo fare, dai. Va bene, tu iniziato vai a lavorare? No, negativo, claro, negativo. Niente, ho finito da poco di pranzare. Adesso sono salito con la radio. Va bene. Adesso si tratta di, come si dice, di tenerlo un po' in funzione, farlo lavorare, farlo andare, dai. Cazzo, un po' di anni ferma questa radio, peccato veramente. Quelli di Aneto già funge, vero? Non conviene manco darlo, secondo me. No, questo non esce, Massimiliano. No. Un bel linearetto è sempre della serie 747, come vedi non distorce. Vabbè, sono sganciato, e dai i suoi 5 watt, c'è un bel segnalino, va bene. Per me conviene tenerlo, Capito? Va bene così. Le cose che devo togliere a mezzo alle palle, te l'ho detto stamattina, quali sono? Adesso faccio due scatole, quelle che sono da togliere fuori dalle palle, le metto in una scatola e ci scrivo da vendere, mentre invece le cose che mi interessano le metto tutte da parte, quelli di aretto saranno una cosa da tenere assieme al 747, assieme all'altro lignaretto, insomma gli altri che c'ho VHF, eccetera. Tutte le cose che interessano, te l'ho già spiegato, vanno tenute, perché poi mi servono o ci servono e non ne abbiamo, Massimiliano. Sì, claro, concordo. Dai, va bene così, togliamoci quella roba che già mi hai compreso, va. Tutta quella roba là. Sì, beh, ne abbiamo già parlato stamattina, noi ci sono altri numeri da fare o da dire. La roba non serve, va buttata via, va data a chi serve, naturalmente, a chi la usa, a chi ne fa vetrina, eccetera. È inutile tenere, cioè, assolutamente non fa più. Siamo pieni, ok? Quindi le cose che io ho già messo da parte sono da dare, altre no. E adesso ci aggiungiamo anche questo linearetto che ho provato, quello da 87 che va bene, un bel abbinamento. Questo è l'MB+5, che è perfetto, e va benissimo, ho tirato il piantone staccato, l'ho rimesso a posto, insomma fatte quelle pulizie, eccetera, e funziona bene, come vedi non gracchia, ottimo per la truppa. Ma questo parliamo che quello vecchio? Questo parliamo quello della scatola, assieme al +3 e al +4, per capirci. Ah, ok, va bene, esce bene. Eh beh, situazione con Lecca Lecca? Allora, con Lecca Lecca devo togliere questo microfono e inserire, ecco. Questo è il microfono normale, attento, senza eco. Cazzo di radio, più forte del P5. Te lo sto dicendo, è micidiale. Allora, così, senza eco, adesso vado a inserire la camera eco Colt. Eccoci qua. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Tutto sganciato con 4 watt di pilotaggio. Aggancia, vedete? Allora, adesso agganciamo, aspetta, è così, è sganciato. Yeah. E così siamo agganciati, cambio. Fatte da quella persona lì, sono radio eterne, conta quanti anni questa radio la vedo all'armadio. È bella davvero, sia agganciata che agganciata. Agganciata la regolazione è quella. Non bisogna toccare più niente, sia sganciato che agganciato, sia con l'eco che senza eco. Deve andare così, Massimiliano. Ed è perfetta. Ascolta, è così agganciata quanto ne dà? Sempre uguale a prima? Allora, portante muta siamo intorno ai 120-130. Yeah. Quando fischio, quando parlo va a 180. Bella, bella. 180 watt con quel lineare che abbiamo messo a posto. Ci possiamo divertire sul canale 45 a fare due chiacchiere, dai. Sì, lo sai lì cosa bisogna organizzare, Cla? Una ventolina giusto per non scaldare molto, va. Lo sai qual è il problema, questo ne ha due di dissipatori. Una a destra e una a sinistra. Mettendo la ventolina al centro non fa un cazzo, ma c'è un'idea. Devo trovare una soluzione. Ne ho una piccola, una media, una grande. Adesso vedo, stasera mi dedico a fare magari questa cosa, beh. Quindi sei soddisfatto di quello che ti ho detto stamattina? O devo ripetertelo? No, va bene, tutto a posto, crack. Questa è una bella radio, va. Ma io te l'ho detto, no. Non sono più disposto a regalare, Massimiliano. Ho regalato troppe cose e poi l'ho presa sempre al buco del culo. Allora, le radio rimangono a casa. Non le uso, non mi stanno chiedendo niente. Ne abbiamo già parlato. Chi le vuole le paga, se no rimane un'altra cassetta. Capito? Questa, assieme all'altra, assieme anche al Typhoon 2, assieme a tutte quelle che sono dentro la cassetta che tu sai benissimo, sono tutte funzionanti e pagate con un fior di quattrini per farle arrivare a questi livelli. Capito? Quindi ne abbiamo già parlato, non c'è bisogno di dire niente. Adesso io separo le cose da dare e quelle da non dare vanno messe da parte. Gappa, gappa! Così bella, anche. Bella davvero. Ma te l'ho detto. Io volevo appunto, a parte l'eco che io lo uso solo quando magari andiamo a fare un po' di casotto sul 45, però mi interessava usarle queste radio anche a livello normale, quindi anche così, no? Che questa, il bello di questa radio che tu fai così, ecco qua, ed è tutto spento. Capito? E stai usando il microfono normale e con Mickey Gain a ore 3. Con Mickey Gain a ore 3. Senti che modulazione che ha il microfono normale. Ti sto dicendo che il microfono normale è superiore all'MB+5. Però ascolta, Cla, facciamo un attimino un passaggio nel 45. Mi misuri i watt di quell'affare per vedere se nel 45 ne dà di più. Perché già lo sai, quella radio è stata fatta per il 45, no? Esatto, però tu lo sai che io cazzo non me ricordo qual è il pulsante, qual è quello dei 100, 100 più 100 meno sul 45, o l'altro, dove c'è scritto step, se tu ce l'hai uguale. No, dove ci sono le barre A, B, C, D, E? Vabbè, sul 45 metto sul 5 e vado sulla banda C. Nel 45 metti sul 5 e vai nella banda E. Empoli. Ah, è vero, sì, che rincoglionito. Va bene, vai sul 45, eh. Attenzione, binario 10, ascoltate la radio Vultagerre, coordinate isola della Sardegna Nord che fa una videochiamata, KK. Provo, se va bene, Claudio Radio Sparviero, ascolti questo piccolo tornado. Positivo, dai, tutto rocere. Sto provando quello che non hai voluto prendere questa mattina, la cosa tutta rocere, cambio. Che radio devo avere? Ci viaggio io, perché non prendeva tua. Ma senti la mia, non gira bene lo stesso, cambio. Positivo, tutto rocere, dai. Cambio. Così la cosa è più positiva, dai. Claudio, radio sparriero, tutto rogliere. Già funziona, ma si vede a Puglia. Anche questo già sta ancora funzionando. Quando non funziona più ce la buttiamo alla finestra, eh. Positivo, dai, sparriero, la cosa è bella, eh. Devi allungare un po' la parola che così l'eco gira meglio, cambio. Vabbè dai, vado a fracassare, se no mi si secca tutto, ciao. Sì, vai, vai. Lasciate la radio. Ci sentiamo dopo. Va bene, cambio. Ma ti pensi che qua siamo a pettinare le bambole, guarda la foto, la cosa è tutta. Cappa brioche, cappa... Devo smettere con lo... Questo qua sta arrivando abbastanza forte, oltre il 20, sì, dai. C'è sopra il più, sì, del 30. Positivo, dai, Claudio, tu solo radio qua, dai. Qua abbiamo solo la radio, capito? Quel video che ti avevo mandato quella volta là, capito? Un fatto e mezzo di portante, tutto il resto modulato, la cosa rogere, capa brioche, capa capa. Ciao Claudio, ciao. Ci aggiorniamo dopo. Già sono in ascolto io, ciao. A me la signora è finita. No, che no, negativo. Ma cosa facendo stai? Vabbè. Sto guardando la televisione, io sono ancora, ci sentiamo dopo. Gappa gappa, dai. Ho preso una mezz'oretta e ho concluso, dai. Se la vedi adesso non è come stamattina, tutto positivo, gappa gappa. Fare quello, adesso vediamo. positivo, dai, oh Claudio, io già sono qua in ascolto e c'ho sempre tutto acceso, dai, piano piano finisco e tutto Rogero. Va bene, gappa, sono qua, ciao, a dopo. Gappa Rogero, quando hai bisogno fai una chiamatina, la cosa Roger Kingi e gappa Priosia, gappa. Chiusa che l'ha aperta, cioè sia l'ha aperta che l'ha chiusa, niente da fare, non passa. Ho un dilemma questa cosa. Andava tu vicino in casa, vabbè. Infatti adesso consulterò a lui e vediamo. Se no domenica mattina me la porto su Andrea e vedi che ne buchiamo bene. Allora fai così che è meglio, va. Infatti, che lui di componentistica se ne intende più di me sicuramente. E vediamo una controllata bene col tester e tutto. Perché lì c'è qualche interruzione di qualcosa, è impossibile che non può andare così, non puoi pigliare il colpo e mandare. Ma se era un colpettino si abbigliava il culo, ma adesso manco se la tira a terra a parte. Ma lì è questione di qualche saldatura, di qualcosa del genere, penso sia qualcosa così. Sicuramente bisogna aprire tutto bene, perché quando metti la mano sopra aperta, ronza, fa capito? Ma non è che sia roba di microfono? No, c'è la recensione anche senza microfono, ma sì, no, non c'è problema. Non è micro, la prima cosa che ho fatto era quella. E cosa vuoi ti dica? Grazie, io sono sempre qua in ascolto, va, che mi striscio l'altra palettina, va. Hai fatto tutta quella grande, anche quell'altra piccolina dove ne hai buttato il muretto stai facendo? No, quella diciamo dove c'è la porta, va. Dove ti ho fatto vedere che c'è il filo di Sky, quella palettina lì, quella mezza paletta e poi. Beh, quella lì è piccolina, poi già è facile quella fare. Fai Massimiliano, io già sono qua in ascolto, ok? Scappa Roger, allora io sono qua che io l'ascolto, è tutto acceso, ciao, a dopo. Ciao Massimiliano, sta andando bene? Sì, sempre ultimo la modulazione. Perfetta, se no già lo sento l'avrei detto. Va bene, che lo fa normale, dai. Ok, a dopo, ciao. Va bene, Massimiliano, finito, vai. Massimo. Claudio, se ci sei io sto uscendo, se sia l'ascolto. Ehi, e io sono qua, non c'è problema. Ma io anche io, adesso spengo tutto e mi vesto e vado a portare il cane, faccio una passeggiata. Se vuoi reagire, no. Ho chiuso quella roba là, l'ho rimessa a posto, nella sopra la sedia, adesso domani mattina. Ci riprovo a vedere se sono più fortunato, Ciao Massimiliano, buona serata, buon tutto e ci aggiorniamo telefonicamente, ok? Positivo, no, io mi ho finito queste due palettine, ratassate anche, pronte a imbianchina. Fatto la luce, si sta prendendo Daniela, vado a prendere la Gaia a scuola di ballo. Capito. E va bene che va bene, dai. Se non rientro tardi, magari poi ti mando un messaggio, se ne hai voglia, ci facciamo due chiacchiere dopo cena, se ne hai voglia. Io non lascio acceso, bisogna stare acceso sto baracchino, non lo spengo. Al limite sentiamo dopo, tu manda un messaggio, poi ti dico sì o no. Va bene, perché molto probabilmente, non lo so, non aiutano, andare a trovare l'aria al Carsi che c'è la festa, perché non l'hai portata la bambina oggi. Claro, non l'ho portata perché domani c'è scuola, capito? Hanno fatto festa a scuola stamattina. Ah, è vero, già me l'hai detto. Vabbè, dai. Ci aggiorniamo dopo, Massimiliano, non c'è problema, già sono in ascolto, ok? Va bene, non lo so, se ne aggiungano, se non voglio dopo mi faccio una chiacchierata. Lasciate acceso anche quello nero, non si sa mai che ha bisogno di scaldare un bel po' anche quello. Ce l'avevo acceso tutta la sera, Massimiliano, con l'altro spinotto, l'altro levettatore, però non è il problema di accensione, è che non parte, non aggancia il relè, non aggancia, non c'è niente da fare, c'è qualche altro problema sotto qualche pista. Ma già, adesso ci riprovo domani mattina, se no domenica lo porto da Andrea, lo facciamo lì. Ok, dai, ci aggiorniamo dopo allora, ciao. Ciao Claudia.